Il Verbo si è fatto carne. 1534. Capitolo 23. Nei dintorni di Münster, Westfalia. 13 gennaio 1534. Scatto in piedi per il rombo lontano, i cannoni nelle orecchie, occhi sbarrati. Ancora uomini che fuggono nella piana. No, è soltanto il tuono che ci insegue da giorni lungo la strada. Un altro tempo, un altro sguardo. La paglia, puzzolente e calda, neppure animale di vacche e uomini che mi riporta qui. E subito freddo che strappa il sonno, appena scostato dal fiato del bove. Un occhio tondo ed enorme mi osserva. Il ruminio quotidiano è già ripreso. Alla finestra una luce stranissima, di ferro, sotto un cielo basso, carico di nubi e gelo che aspettano gli impavidi, sul cammino verso la città. Ecco il secondo. È ancora un brivido della memoria. Le bestie inquiete sanno qualcosa di più su quello che ci attende fuori. Ricaccio giù le immagini del passato. Il terzo tuono è un baluginio che spacca l'orizzonte. Si avvicina sommesso, con i passeri che gridano la fame e la frustrazione di non poter volare. Ci schiaccerà, nero incontrastato su tutto il cielo. E chissà che non sia proprio così la fine, il risucchio o il diluvio, invece che il terremoto di Spingarde. Non credo che ce la farei di nuovo, una seconda volta. Comunque, non è cosa da chiedersi all'alba, a stomaco vuoto da due giorni e con tutte queste miglia nelle gambe. Ecco il quarto, molto più vicino. C'è quasi addosso. Un botto che scuote la terra e lo scroscio improvviso che rimbalza sulle foglie e piove giù dal tetto. Lo sguardo sulla strada. Già un canale di fango che scivola dietro la bassa collina. Solo due pazzi viaggerebbero con questo tempo. Due come noi. Lo sento mugugnare nell'ombra della stalla, bestemmiare piano. L'orizzonte è del tutto chiuso. La città potrebbe anche non esistere più. Oh, Jan, non hai mai pensato che il giorno del giudizio potrebbe essere così? Vieni a vedere. Il paesaggio è stravolto. Sembra incredibile che la terra e il cielo torneranno quelli di prima. Ruscio di fieno schiacciato. Equilibrio ancora incerto. Sbircia fuori, strizzando gli occhi. «Ma che cazzate dici? È soltanto l'inverno!» «Eccola! Là sotto!» Un profilo grigio, sfumato dal diluvio, si riesce appena a intravedere. «Sei sicuro? È lei!» «Come fai a saperlo? Abbiamo perso la strada!» «È lei, ti dico, ci sono già stato!» Quasi ci mettiamo a correre. Spuntiamo sulla sponda della collina, ed è lì, a solo un paio di miglia, ma le nuvole la risparmiano. Sulla città non piove, il cielo è squarciato sopra i campanili e una colonna di luce scende a cingere le mura. Così, soltanto così, ho sempre immaginato la città celeste. Ti dico che lo ricorderanno questo giorno, fratello, lo ricorderanno come il principio. Ha gli occhi illuminati, l'acqua gli cola a rivoli dalla barba e dagli orli del cappuccio. Certo, ricorderanno il giorno in cui gli apostoli del grande Mattis giunsero a portare la speranza. Questo è l'inizio. Sento che sta per esplodere, zelante, sbracato apostolo pappone sopraffatto dall'estasi di trovarsi qui. Ostenta un gesto cavalleresco per cedermi il passo, ma è sinceramente eccitato. Benvenuto nella nuova Gerusalemme, fratello Gert. Gli occhi ridono. Benvenuto a te, Jan di Leida, e attenta a non rimanere indietro. Ci lanciamo giù, per la collina, scivolando sull'erba fradicia, rialzandoci e ridendo come ubriachi.